Salve a voi tutti, sono un cretino, un vero idiota, un coglione asinino, e siccome lo sono, ne vado anche fiero, mi sento un eroe, come il corsaro nero. Gioco a pallone, mentre leggi sto alla televisione, in viaggio tu guardi chiese paninoteche, io tette culi e paninoteche, in un film guardi la sceneggiatura, io le boccacce o la scollatura, sono un cretino globale, lo so, son pieno di amici e invece tu no. No, perché hanno educato un mondo di cretini, ci hanno tutti ammaestrati come barboncini, ci hanno detto che i libri si usano per cuscini, ci hanno detto che sapere è un male da evitare, ci hanno detto che gli atlanti sono roba da mangiare, romanzi e storia anche, ma fanno anche più male, ci hanno detto che è da divi farsi video e sorvegliare, ci hanno detto che è da divi farsi video e sorvegliare. La bibita glaciale mi fa sentire speciale, la scarpa omologata davvero originale, mi fa sentire un duro, un uomo da imitare, un'aquila rapace che piscia sopra il mare, non so se è il palmare o è il cervo che l'ha vinto, ma mi sento proprio il maschio perfetto, guardandomi intorno mi rallegro un po', io sono alla moda e invece tu no. Beh no, tu proprio no. Perché hanno educato un mondo di cretini, ci hanno tutti ammaestrati come barboncini, ci hanno detto che i libri si usano per cuscini, ci hanno detto che sapere è un male da evitare, ci hanno detto che gli atlanti sono roba da mangiare, romanzi e storia anche, ma fanno anche più male, ci hanno detto che è da divi farsi video e sorvegliare, ci hanno detto che è da divi farsi video e sorvegliare. Vado in palestra ogni giorno 8 ore, vado in disco ogni notte 9 ore, se sono un po' teso è perché seguo una dieta, mi hanno detto che è la più completa, la seguo proprio tutta fino alla Z, ogni tanto svengo ma sono quasi alla meta, per arrivare alla sera lo so, io devo tirare di coca e tu no. Effettivamente io sì e quello tu no. Perché ci hanno educato un mondo di cretini, ci hanno tutti ammaestrati come barboncini, ci hanno detto che i libri si usano per cuscini, ci hanno detto che sapere è un male da evitare, ci hanno detto che gli atlanti sono roba da mangiare, romanzi e storie anche, ma fanno anche più male, ci hanno detto che è da divi farsi video sorvegliare, ci hanno detto che è da divi farsi video sorvegliare, ci hanno detto che è da divi farsi video sorvegliare.